of her is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say. I cannot do this, snowflake. Ciao a tutte e a tutti, buonasera, bentrovate e bentrovati ad una nuova puntata della Mucca Libera, la trasmissione antispecista di Radio Asilo. Anche questa settimana abbiamo diverse notizie provenienti dal mondo animale e degli approfondimenti di cultura e di tematica antispecista, sempre come al solito tutti i lunedì alle ore 19 e in replica il martedì alle ore 11. Partiamo da alcune notizie che ci provengono dal mondo. E la prima notizia di cui voglio parlare ci viene dal Giappone ed è una notizia molto inquietante perché è ripresa come ogni anno la caccia ai delfini in una città del Giappone che si chiama Taiji ed è una città sul mare, c'è cioè questa baia appunto omonima di Taiji, dove avviene da settembre in poi una caccia ai delfini, ripresa purtroppo anche quest'anno, e già sono stati catturati 4 delfini nei primi giorni dall'inizio di questa caccia orribile che viene fatta in questa baia. Il fine di questa caccia è ovviamente per il profitto delle aziende del posto, perché questi delfini vengono venduti negli acquari un po' di tutto il mondo. Parte viene venduta di questi delfini e parte di questi delfini vengono uccisi direttamente. Comunque la situazione è veramente brutta ed è una situazione che è stata raccontata più volte dalla stampa, anche con la produzione di un documentario che si chiama The Cove, e narra questa situazione terribile che c'è in Giappone nella città di Taiji. Come dicevo, questi delfini poi si faranno il giro del mondo quando non verranno massacrati e saranno negli acquari di vari paesi del pianeta. When you take control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she. Continuiamo con altre notizie provenienti dal mondo, e questa volta andiamo invece in Inghilterra, nel Regno Unito, vicino Nottingham, nella città di Stanley. È successa una cosa che voglio raccontare. In una fattoria un pinguino è scappato e ha tentato di fuggire, cercarsi di guadagnare la libertà. Purtroppo è stato ripreso dopo questa fuga che è durata 1,5 km ed è stato riportato in cattività in questa fattoria inglese. Il pinguino fa parte di una razza molto particolare che si chiama Humboldt. È una specie tipica del Cile, del Perù e dell'Oceano Pacifico. Questo per dire come è un pinguino, insomma, che non era assolutamente adatto a stare in quel posto. Purtroppo è stato ripreso dalla polizia dopo questo tentativo di fuga che è durato 1,5 km. Guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Torniamo in Italia, parliamo di un altro animale, di un'altra specie molto rara, un pappagallo di razza ara, che ha tentato pure lui di fuggire dalla cattività dove era costretto a Perugia. Quindi in Italia, a Perugia, è stato catturato dopo 2 giorni di fuga. Per 2 giorni questo pappagallo di una specie molto rara ha cercato di fuggire, poi è stato preso dai vigili del fuoco, si era nascosto su un platano e purtroppo lo hanno ripreso. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Torniamo in onda e parliamo questa volta di una good news, una buona notizia, come ogni tanto ci capita fortunatamente di raccontare nella nostra trasmissione, soprattutto quando parliamo di resistenza animale, di fughe animali ben riuscite. Partiamo da qualche giorno fa, il 5 settembre, e ci troviamo ad Olbia in Sardegna. Che cosa è successo? Che un toro è fuggito dal terreno di una zona di Olbia che si chiama Basa e che si trova all'ingresso della città sarda. Il toro è stato avvistato sulla strada dalla polizia e la polizia ha cercato di catturarlo con i soliti metodi brutali e fortunatamente però non ci è riuscita. Questa volta possiamo parlare di una fuga andata a buon fine da parte di questo toro di Olbia. Ovviamente i media, quando ci parlano di questi fatti, raccontano sempre del toro che ha aggredito i poliziotti, però sempre volendo andare un po' al di là del modo folcloristico con cui vengono trattate queste notizie, possiamo dire che il toro alla fine semplicemente stava fuggendo e fortunatamente è riuscito a farlo e si è nascosto nella macchia mediterranea limitrofa a questa tangenziale, questa strada di Olbia, ed è stato messo in campo un grande dispiego di forze di polizia per catturarlo. Però nell'ultimo aggiornamento che abbiamo controllato sui siti locali della Sardegna non è stato trovato, quindi possiamo dire, magari vi aggiorneremo anche la prossima settimana se ci sono delle novità, però per ora possiamo dire che questo toro è riuscito a mettere a segno questa sua bellissima fuga. Dopo questa notizia molto bella, mandiamo in onda il

partendo da un luogo ben preciso, in un periodo di tempo che sono gli anni 80, i primi anni 80 del secolo scorso, nella città di New York in America, e ci presenta alcuni casi particolari, partendo da una mucca di nome Queenie, che si è riuscita nell'80 a Brooklyn a sfuggire al macello, si è liberata dalle grinfie dei suoi assassini, è riuscita a scappare e si è inoltrata per la metropoli americana, per le vie di Brooklyn, suscitando anche un po' di attenzione da parte dei media e della popolazione. Insomma, una mucca che si libera da un macello, si ritrova in un ambiente metropolitano completamente ostile e inadatto alla propria, diciamo, vita, a come si può muovere nella metropoli, una mucca che invece era destinata ad essere uccisa dopo di lì a poco. Partendo da questo caso, allora Sarah Colling fa una indagine su quelle che sono le reazioni sia da parte dei media, diciamo dall'alto, ma anche dal basso, da parte delle persone che sono andate in soccorso di questa mucca e sono riuscite in questo caso particolare a portarla in un rifugio, quindi a salvarla. E la Colling fa un'inchiesta, fa un'indagine, fa delle interviste sia alle persone del rifugio, sia legge i commenti che ci sono stati sui media, sui giornali in quel periodo, e quindi fa tutta un'analisi della situazione. Quello che mi preme dire è che questo tipo di metodologia ci parla della resistenza animale e ci parla della resistenza animale situata in comportamenti degli animali, comportamenti che sono pieni di intenzionalità, sono gli animali che vogliono fuggire e ci riescono in questo caso. Quindi il primo punto da sottolineare è che la Colling ridefinisce l'antispecismo e gli studi, gli animal studies, in questo caso critical animal studies americani, dal punto di vista di una fuga di un animale, di un essere vivente, una mucca in questo caso specifico. Poi ci sono sei casi simili avvenuti sempre in quel periodo, ridefinendo la presenza e l'intenzionalità della fuga degli animali, ristabilisce un po' quello che in genere viene visto come in senso passivo. Spesso si parla nel movimento animalista e anche in quello antispecista dei senza voce, cioè degli animali che hanno bisogno dell'intermediazione umana per avere una propria difesa. Quindi anche la resistenza animale dovrebbe avere, secondo tanti attivisti, attiviste, tanti gruppi che sono presenti oggi in tutto il mondo, alcuni si chiamano proprio la voce dei senza voce, per dire una molto concreta, un esempio molto concreto. Invece qui abbiamo l'intenzionalità di un animale che in prima persona ridefinisce politicamente lo spazio in cui poi si va a collocare, in questo caso lo spazio urbano, che è lo spazio di oppressione in genere per gli animali, per gli altri animali. E quindi qui arriviamo al secondo punto che mi piace sottolineare rispetto al racconto che fa, all'analisi metodologica che fa Sarah Colling, perché penso che di interpretare i suoi studi rispetto al fatto che queste fughe degli animali, questa resistenza animale, la singola fuga ridefinisce lo spazio politicamente. Quindi la stessa fuga che viene portata avanti con intenzionalità dall'animale è di per sé un atto politico da indagare. E questo è un po' il discorso che, su cui è sempre bene riflettere, perché lo spazio urbano in cui si trovano gli animali, in questo caso, anche come in tanti altri casi di cui parliamo anche nella nostra trasmissione, sono spazi ostili, spazi in cui la polizia poi si adopera per recuperare gli animali e riportarli nei macelli, ma sono anche spazi in cui è possibile la solidarietà, perché gli esempi di questi animali che sono riusciti a fuggire, che riporta la Colling, sono stati appunto questi animali aiutati da attivisti e attiviste, portati dentro dei rifugi, dei santuari, e quindi hanno continuato la loro vita e quindi sono ancora liberi in alcuni casi e vivono in questi rifugi. Quindi lo spazio si ridefinisce attraverso l'atto di resistenza dell'animale singolo, anche attraverso la solidarietà che gli umani possono mettere in campo. Quindi è veramente un testo molto bello, è breve, sotto forma anche di analisi e di indagine sociologica, perché nei primi capitoli spiega un po' la metodologia che vuole mettere in campo la Colling, e poi si conclude con gli episodi narrati da parte di questi animali liberi che si sono liberati dalla mucca Queenie ad altri animali che poi sono stati messi nei rifugi. E quindi questo era un po' il libro di cui volevo parlare questa settimana, Animali in rivolta di Sarah Colling, di edizioni Mimesis, la collana Eterotopie. E prima di passare ad un nuovo pezzo, volevo dare una notizia che riguarda il mio eroe, che è lo M49, di cui abbiamo spesso parlato questi microfoni, e l'ultima volta è stato la settimana scorsa, in cui purtroppo proprio prima è venuta la nuova cattura di M49 ed era stato nuovamente rinchiuso all'interno del Casteller. Non siamo soliti dare molta voce alle parole dei ministri, ma in questo caso le parole del ministro dell'ambiente Sergio Costa sono veramente puntuali. Dice: sapere che Papillon è chiuso in una gabbia fa male. Nei suoi mesi di ritrovata libertà non ha mostrato pericolosità verso l'uomo, ha cercato cibo come giusto che sia. Poteva essere radiocollarato nuovamente e seguito a distanza. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, con il quale sono in contatto, conosce bene la mia posizione. Quindi, continua Costa, ho dato mandato attraverso gli uffici del Ministero a ISPRA e ai Carabinieri Forestali di andare a verificare le condizioni di salute di M49 e degli altri due orsi che si trovano a Casteller, luogo ormai al limite della sua capienza. Vogliamo che in questa detenzione almeno sia garantito il benessere animale. Non è un mistero, dice sempre il ministro, che nei mesi scorsi io abbia provato tutte le strade per poter trovare una nuova casa per Papillon all'estero, ma per ora le notizie non sono positive. Credo però che il discorso vada reimpostato completamente. Premesso che la sovrappopolazione denunciata dal presidente della provincia di Trento sia da dimostrare, ho scritto una lettera ai presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, affinché si possa estendere ai territori da loro amministrati il progetto Life Ursus, un progetto europeo di reintroduzione dell'orso bruno, ambizioso e ben riuscito, se consideriamo che questi splendidi mammiferi erano quasi estinti negli anni 80. In effetti è proprio grazie a quel progetto che nelle Alpi italiane si sono ripopolate di quella specie che è l'orso bruno, e raggiungendo i circa 100 esemplari di cui si parlava e abbiamo parlato anche a questi microfoni. E mentre quindi le parole del ministro Costa sono quelle di una ripopolazione della zona da parte dell'orso bruno e di trovare delle condizioni di convivenza

parliamo di biodiversità attraverso il commento di questo report del WWF internazionale, questo report biennale che si chiama WWF Living Planet. Se ne è parlato molto sui media in questi giorni, parlando appunto, commentando i dati che emergono da questo report, che sono alquanto sconcertanti. Parliamo della distruzione della fauna selvatica per due terzi degli animali nel mondo, che sono scomparsi in meno di mezzo secolo. Quindi abbiamo avuto negli ultimi 50 anni la distruzione del 67-68% dell'habitat naturale in tutto il pianeta. Il report del WWF ci parla di alcune specie che sono state catalogate come in estinzione, in via d'estinzione probabile. Parliamo del gorilla di pianura orientale, del pappagallo cenerino del Ghana sud-occidentale e purtroppo di diverse specie di pesci di acqua dolce, di cui si è verificato un calo del 84% in quest'ultimo periodo analizzato dal report del WWF. Quello che si può dire in commento, perché questi report insomma vanno sempre anche un po', a mio modesto parere, vanno anche un po' analizzati e decodificati anche in maniera critica, perché per esempio io leggo in questo report che c'è una quantificazione in 479 miliardi di dollari di danni annuali rispetto alla distruzione dell'ambiente. Però onestamente non so che significato possa avere calcolare in dollari la distruzione del pianeta. Cioè, sicuramente dal punto di vista statistico economico c'è un senso e una corrispondenza delle analisi statistiche, però dal punto di vista politico la distruzione del pianeta la possiamo anche quantificare in dollari, ma è sotto gli occhi di tutti, si sta verificando di fronte a noi, quindi non è che possiamo parlare di una cosa puramente economica. Per esempio ieri sul giornale californiano, il Los Angeles Times, c'è stato un giornale aperto con un titolo, come si dice, in prima pagina, quattro colonne, uno strillo in cui si dice apocalisse climatica in California, che è un po' il tema anche della nostra sigla, della sigla della nostra trasmissione, quella di appunto di Billie Eilish. E quindi diciamo l'apocalisse è ora e la distruzione del clima è adesso. Quindi penso che ci servirà poco quantificare i danni economici se non cominciamo a pensare politicamente di passare al di là di queste concezioni. La salita te indica ironica, es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. Torniamo con quella che credo sia l'ultima notizia della serata. E andiamo in Belgio, nella regione delle Fiandre, dove è stato stabilito un divieto di macellazione rituale. In realtà l'avvocato generale della Corte UE ha deciso che questo divieto di macellazione rituale stabilito è contrario al diritto europeo. Era una controversia già in atto da un po' di tempo, riguardante appunto questa legge fiamminga che vieta la macellazione di animali uccisi senza stordimento, anche nel caso in cui questa macellazione avvenga con i metodi prescritti da riti religiosi, i riti religiosi ovviamente ebraici ed islamici. L'avvocato, il cui nome della Corte europea, il cui nome è Hogan, ha sottolineato che gli Stati membri dell'Unione europea possono adottare delle norme più rigorose rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione, ma sono tenuti a rispettare la deroga prevista per i riti religiosi. Le conclusioni ovviamente di questo avvocato non sono vincolanti rispetto alle decisioni della Corte di Giustizia, ma in generale vengono accolte, per cui i gruppi animalisti in Belgio che erano in gran parte presenti anche alla pronuncia della Corte, dell'avvocato, si sono detti molto delusi, molto perplessi e si sono chiesti come saranno trattati quei paesi invece membri dell'Unione Europea che da anni hanno dei divieti generali di macellare senza stordimento. E questo vale per esempio per la Danimarca, per la Finlandia, per la Slovenia, per la Svezia. Ovviamente queste associazioni animaliste si sono dette pronte e sono circa una sessantina, si sono dette pronte a continuare a lavorare per assicurarsi che ogni animale sia adeguatamente stordito prima di poter essere macellato. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Vamos, okay. Original, carnalas. Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. ¿Cómo es que me miro? Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Siamo arrivati ai saluti, la puntata di questa settimana finisce qui. Voglio ricordare che domani alle ore 11, domani martedì alle ore 11 andremo in replica e che il podcast della trasmissione sarà disponibile domani sul canale Telegram della Mucca Libera. Per inviare del materiale, delle considerazioni, qualunque cosa per contatti c'è la nostra mail che è lamuccalibera@autoproduzioni.net.